ci sta un po' di azzurro nella vita mia. Due stelle giù in pianura che ci faranno mai, e Loredana segue la scia. Per i tuoi occhi ancora ho chiesto scusa e sono andata via. La notte come vola, con te sul Monte Bianco a far l'amore in stereofonia. Per i tuoi occhi cambia la luna, per i tuoi occhi sono assassina, per i tuoi occhi canto stasera. Peccato qui con le tue braccia, con quest'anima mia rimanita, con la testa un poco spenta, ma un milione di candele tra le dita. Per i tuoi occhi ancora girare come in bambolata al Luna Park, un ago nella gola, ma innamorata